Ci troviamo nel libro di Ruth. Qualcuno, ripetiamolo insieme. Siamo nel libro di Ruth, che non è una brutta parola, ok? È proprio il nome di una persona. Ed è una persona, è un personaggio straordinario che troviamo nel Vecchio Testamento. E stiamo affrontando il tema di quest'anno, che è verso la tua... Vi voglio pentecostali, vi voglio pieni di vigore, vi voglio attivi, vi voglio sgolati come me questa mattina, quindi lo diciamo di nuovo, verso la tua direzione. Amen, è una dichiarazione, noi vogliamo andare verso la direzione che Dio ha per noi e Ruth ci dà un esempio meraviglioso. Abbiamo letto l'intero capitolo 1 la scorsa domenica. Questa domenica leggiamo l'intero capitolo 2. Perché? Perché io credo che noi siamo una chiesa matura, che possiamo non limitarci a pochi versi da leggere frettolosamente. Io ritengo che noi siamo una chiesa talmente matura che non si fa sconcentrare o distrarre da nulla e ama immergersi nella parola di Dio. Sto parlando della chiesa giusta? Siete voi la chiesa giusta che sto nominando in questo momento? E allora vogliamo leggere insieme l'intero capitolo 2 di Ruth? Facciamolo, è meraviglioso, qui è ancora più meraviglioso. Dice così: Or Noemi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Naomi: Lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale troverò grazia. Ella le rispose: Va, figlia mia. Così Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E le capitò per caso di trovarsi nella parte del campo appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Or ecco che Boaz venne da Betlemme e disse ai mietitori: L'Eterno sia con voi. Essi gli risposero: L'Eterno ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: Di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: È una fanciulla moabita che è tornata con Naomi dal paese di Moab. Ella ci ha detto: Vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro ai mietitori. Così essa è venuta ed è rimasta da questa mattina fino ad ora, si è riposata in casa solo un momento. Allora Boaz disse a Ruth: Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve, tieni gli occhi sul campo che mietono e va dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei servi di non molestarti? Quando hai sete, va dove sono i vasi a bere l'acqua attinta dai servi. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: Per quale ragione ho io trovato grazia ai tuoi occhi al punto che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Boaz le rispose dicendo: Mi è stato riferito tutto ciò che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai lasciato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a vivere con un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti ripaghi di quanto hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Ella gli disse: Possa io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, perché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Al momento del pasto, Boaz le disse: Vieni qui, mangia il pane e intingi il tuo boccone nell'aceto. Così ella si pose a sedere accanto ai mietitori. Boaz le porse del grano arrostito ed ella mangiò a sazietà e mise da parte gli avanzi. Poi si levò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi dicendo: Lasciatela spigolare anche fra i covoni e non rimproveratela. Inoltre, lasciate cadere per lei delle spighe dai manipoli e abbandonatele perché essa le raccolga e non sgridatela. Così ella spigolò nel campo fino a sera, poi batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori circa un'efa di orzo, 30 chilogrammi. Se lo caricò addosso, entrò in casa e sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato. Ruth tirò fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. La suocera le chiese: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha prestato attenzione!» Così Ruth riferì alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse: «L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz». Naomi disse alla nuora: «Sia egli benedetto dall'Eterno che non ha ritirato la sua benignità ai vivi e ai morti». E aggiunse: «Quest'uomo è nostro parente stretto, uno che ha il diritto di riscattarci». Allora Ruth, la Moabita, disse: «Mi ha anche detto: rimani con i miei servi finché abbiano finito tutta la mietitura». Naomi disse a Ruth, sua nuora: «Ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti trovino in un altro campo». Ella rimase perciò a spigolare con le serve di Boaz sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento ed abitava con sua suocera. Il libro di Ruth è un libro che, se letto in superficie, in maniera superficiale, è già bello di per sé, è una storia romantica, di riscatto, meravigliosa, ma quando ci prendiamo la briga, come stiamo facendo in queste domeniche, anche se dovremmo ancora scavare più a fondo, quando ci prendiamo la briga di meditare, studiare, approfondire, noi scopriamo i tesori che sempre la parola di Dio ha da riservarci, ha da riservare a coloro che la prendono seriamente in considerazione. Non prendere la Bibbia con la superficialità, non ti dirà molto. Scava, medita, approfondisci, studia, perché ogni parola di ogni libro della Bibbia ha un peso straordinario, eterno, perché non è un libro come un altro, è la parola vivente di Dio. Amen. E quindi io farò lo sforzo di farvi cogliere almeno qualche gemma da questo capitolo, ma ce ne sono così tante che potremmo stare qui per ore e non esaurire tutte le cose che emergono da questo capitolo. Però in maniera sintetica, il primo capitolo è un capitolo che, se vogliamo, ci dice quando Dio guida. Visto che la tematica è questa, beh, considerando alla luce di questa tematica questo libro e facendoci orientare dall'esempio di Ruth, nel primo capitolo vediamo che Dio orienta, e quando lo fa, la bella notizia, la meravigliosa notizia è che Lui lo fa sempre. Non è mai limitato da nessuna stagione e da nessuna circostanza. Questo è quello che abbiamo visto la scorsa settimana. Non importa quale tragedia si è abbattuta nella tua vita, non importa in che tempi vivi, Ruth ci dà dimostrazione del fatto che Dio è sempre sovrano, che Dio ha sempre l'ultima parola, che Lui è potente da intervenire, guidare i Suoi, sempre, a prescindere da qualsiasi cosa e chiunque, non so la tua storia qual è. E forse sto nominando qualcuno che questa mattina si sente che ha una storia troppo pesante, troppo angosciosa, troppo difficile. Allora io ho una buona notizia: Dio è colui che riscatta le storie più difficili, Lui le riscrive, perché Lui è sovrano e potente, Lui è l'onnipotente. Amen. E quanti possono dire: Dio ha riscritto la mia storia? Amen. E Lui la vuole continuare a riscrivere, vuole continuare a guidarti, vuole continuare, a prescindere dalle circostanze che stai vivendo, portarti al pieno riscatto. È quello che fa con Ruth. Quindi se il primo capitolo ci parla di quando Dio guida, il secondo capitolo ci comincia a mostrare come Dio guida. Ed è straordinario poter leggere nel versetto 3 che chiunque abbia scritto, non si sa con precisione questo libro, dice così di Ruth che va nel campo di Boaz. dice queste parole: capitò per caso. Capitò per caso che Ruth si trovò nel campo di Boaz. Un'altra traduzione dice: avvenne a caso. Avvenne a caso. Ma se poi tu vai avanti nella lettura e nel capitolo, ti rendi conto che quel avvenne per caso non è esattamente come noi intendiamo il caso. Nell'andare avanti ti rendi conto che quell'avvenne per caso non è da prendere alla leggera, perché avvenne per caso che Ruth andò nel campo di Boaz. E seguitemi nel discorso, abbiamo un po' inquadrato la storia di Ruth, ci rendiamo conto che lei è stata riscattata proprio da quest'uomo. Quindi avvenne per caso che Ruth si trovò in un campo. Avvenne per caso che quel campo era proprio di Boaz. Avvenne per caso che Boaz era uno dei pochi parenti, lui e un altro, che poteva riscattare questa donna. E c'è tanto da dire sul riscatto, ma significa che poteva riprendere le sue proprietà, le proprietà del marito, e anche ridare a lei l'onore di essere sposata e avere un'eredità. Il parente che redentore, questa è la terminologia, il parente redentore aveva la possibilità di dare l'eredità a una vedova e portare avanti il nome del defunto. È una cosa meravigliosa, fa parte della legge di Dio, una cosa di riscatto, solo Dio poteva mettere queste gloriose leggi. E capitò per caso che Ruth si trovò faccia a faccia a parlare con Boaz, e capitò per caso che poi Boaz, andremo a leggere nel capitolo 3 e nel capitolo 4, sposerà Ruth. E capitò per caso quindi che Ruth e Boaz ebbero un figlio di nome Obed, e che Obed, capitò per caso, era proprio il nonno di Davide, e che Davide era l'ascendente del re Messia Cristo Gesù. Capitò per caso? Credo, è una casualità un po' particolare, però è bello poter vedere attraverso questa storia come Dio guida, perché nella Bibbia noi siamo abituati a vedere un Dio che guida con apparizioni angeliche, noi siamo abituati a vedere un Dio che interviene e guida dando indicazioni dall'alto con voce udibile. Noi leggiamo nella narrazione biblica che Dio guida con avvenimenti soprannaturali, con sogni, visioni, interventi, miracoli, prodigi, voce udibile dal cielo. Ma non è l'unico modo con cui Gesù guida. Non è l'unico modo con cui Dio guida. Dio a volte guida silenziosamente, in una maniera che è quasi impercettibile. Ma Lui è sempre comunque alla guida delle nostre vite. E allora io vi sto dando un elemento di riflessione questa mattina, un elemento di riflessione che è molto rincuorante, che se anche non ti è apparso ancora un angelo nel tuo tempo di preghiera, se ancora non hai udito la voce a tuono di Dio, che faceva tremare e scuotere le pareti della tua casa, se ancora questo non è successo, a me non è ancora successo, Dio comunque ama guidare il suo popolo e lo fa in mille modi diversi. E la sua guida a volte è silenziosa. E questo per caso, mano a mano che si va avanti con la lettura, si spoglia di questa idea umana che noi diamo al caso e si veste invece della divina sovranità di Dio e la sua guida dietro le quinte. Il caso per i credenti, per chi sa che cos'è il caso divinamente guidato, è Dio che lavora sotto copertura. Dio è al lavoro sotto copertura a volte. 10 anni fa compivo 35 anni, e mi fecero una sorpresa. Per me era una serata qualunque, mi sa che non era neanche esattamente il giorno del mio compleanno. Avevo fatto un appuntamento e stavo rientrando a casa. Presi le mie chiavi di casa e quando entrai dentro casa mia c'era qualcuno dentro. Non era un ladro, non erano dei briganti, dei furfanti, sì, però persone che amo. Era la squadra pastorale, intero, in casa mia, che mi hanno fatto una festa sorpresa. Quanti hanno avuto una festa sorpresa? No? Quando la festa sorpresa funziona, tu non ne sai niente, sei ignaro di tutto. Io non sapevo che qualcuno era riuscito a rimediare le chiavi di casa mia per entrare dentro casa mia, sistemare un po' casa mia, perché all'epoca non ero sposato, renderla un po' vivibile per l'occasione, e poi, dopo aver sistemato casa, hanno portato i rinfreschi, la torta, il regalo, e si sono messi lì, dietro la porta, ad aspettarmi. Io, in quel giorno, io sarei potuto morire a 35 anni. Loro non lo sapevano, ma io potevo morire in quell'occasione, perché è stato per me uno spavento, un colpo al cuore. Però, vedete, è così che Dio a volte lavora. Noi non lo sappiamo. Noi viviamo la nostra quotidianità. Noi andiamo avanti nelle nostre cose consueti, normali, quotidiane. E Lui è lì che ci fa una festa sorpresa. Questo è quello che accade a Ruth. Ed è meraviglioso. Ora, io voglio incoraggiarci, è la mia preghiera proprio, che a partire da questa mattina noi tutti possiamo imparare a vedere la guida di Dio nelle cose che viviamo. Perché non c'è più modo per credenti maturi di considerare ciò che ci accade come una casualità. È da ignoranti e da immaturi. Sapete, Dio è sempre all'opera, anche nei confronti di chi non crede. Nei confronti di Dio, di chi non crede, Dio è all'opera per attirarli a credere, per attirarli al riscatto pieno. Ma Dio è all'opera nella tua vita. Smettila di dire, no, Dio non c'è, Dio non mi considera, Dio non mi vede, Dio non ascolta le mie preghiere, perché non è così. Forse non agisce come vorresti, forse non parla e non dà indicazione come ti aspetteresti o quando ti aspetteresti. Ma Lui è sempre all'opera. E questa mattina io vorrei che noi riconsiderassimo l'approccio alle cose quotidiane, perché Dio è presente, Dio vede, Dio riscatta ancora oggi. Allora io voglio lasciarci con, è sempre bello poter dire, dopo che hai ancora 40 minuti di discorso da fare, vorrei lasciarvi con poche chicchette, no? Sono 5 punti, anzi no, sono 4 punti, anzi facciamo 3, ok? Ci siete per 3 punti? Almeno 3 punti li riusciamo a seguire, perché io vorrei condividere con voi come metterci noi in condizione di essere guidati da Dio. Perché sebbene Lui guida e lo fa sempre, è dato a noi il poterci mettere in condizione di essere da Lui guidati. Non dobbiamo dimenticarci quello che io ritengo essere, e non solo io, il verso principale di questo libro, l'abbiamo letto la scorsa settimana, quando è Ruth che dice a Noemi, il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo. Questa è la decisione più importante che Ruth fa, e voglio ricordarlo per chi magari non c'era domenica scorsa o si è assentato un attimino, la storia di Ruth è la storia di una vedova straniera, povera, che è nella sciagura più totale, con a carico una suocera, amareggiata, vedova anche lei, di cui si deve prendere cura. Questa è la storia di Ruth, e il riscatto completo di Ruth è che da non avere più un marito, ottiene marito, e che marito? Da non avere un'eredità, riscatta la sua eredità. Da essere povera, il marito che sposa è ricco. Da non avere una storia, diventa parte della storia gloriosa della genealogia di Cristo. È una delle sole 5 donne nominate nella genealogia che troviamo in Matteo 1. Ruth diventa il mezzo attraverso il quale Dio farà nascere Cristo Gesù. Dio ha un piano per la tua vita, Dio ha un piano per la mia vita. e non importa da quale storia vieni, lui la vuole riscattare. Ma come possiamo metterci in condizione di essere guidati da Dio? Beh, la prima cosa è sceglierlo. E sceglierlo come ha fatto Ruth, ma io vorrei darvi proprio delle parole che possano, spero, rimanere indelebili nella vostra memoria. Sono tutte con la A, io cerco di fare ogni sforzo affinché le cose rimangano impresse nella vostra mente. Poi non venite dopo la predica a dirmi: però che bella questa predica, mi è piaciuta molto la storiella della sorpresa del tuo compleanno. Non lo fate, è molto scoraggiante per me. Perché quelle sono storielle solo di parentesi, solo per mantenere un po' l'attenzione e vivo il discorso. Però non è quello essenziale, va bene? Ciò che è essenziale è, parola numero uno, amore. Amare Dio. Tu non puoi vivere una vita buona perché sei buono. Tu puoi vivere una vita buona perché Lui è buono. Ed è Lui che ti dà una vita buona, sai perché? Perché ti ama. Lui ti ha amato talmente tanto che ha dato il suo unigenito figlio e lo ha dato quale sacrificio propiziatorio per i tuoi peccati, quale prezzo di riscatto per riacquistarti. Tu sei Ruth, tu sei vedova, tu sei povera, tu sei straniera, tu sei nell'angoscia della vita, tu sei caricata dalle situazioni di questo mondo. Gesù viene e ti riscatta, lui è Boaz. E allora qual è il mezzo attraverso il quale noi possiamo metterci in condizione di essere guidati da lui? Amarlo, contraccambiare questo amore straordinario con il nostro amore, perché Romani 8, e questo è un verso che tutti conosciamo, Romani 8, 28 dice che sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo è il punto principale, io posso pure non nominare gli altri punti. L'amore è tutto ciò che conta, se ami Dio sarai guidato da Lui. Se ami la sua parola, inevitabilmente questa segnerà il tuo percorso, questa segnerà la tua storia. Se ami Dio, la preghiera, la comunione con Lui, lo stare con Lui, l'arrendere a Lui ogni cosa, amare Dio con passione, non ti lascerà mai nella condizione in cui ti trovavi. Ti darà la possibilità di pieno riscatto e ogni cosa coopererà al bene. E quindi non dovrai neanche temere quando ci saranno situazioni difficili o disorientanti o strane o impreviste nella tua vita, perché potrai citare questo verso e dire: io amo Dio. E allora tutto coopererà al bene, perché Lui orchestrerà sempre tutto per il meglio nella mia vita. Amen. Parola numero due, appartenenza. Ruth dice: il tuo Dio sarà il mio Dio. Ma dice anche: il tuo popolo sarà il mio popolo. Amare Dio e avere fede in Dio viene sempre accompagnato da un'appartenenza al suo popolo. È sempre stato vero questo, vero nel Vecchio Testamento, vero nel Nuovo. Se ami Dio non puoi vivere una relazione solo verticale. Entri a far parte di un'appartenenza al suo popolo che si chiama Chiesa. E la Chiesa è il mezzo di cui Dio si serve per poter guidare la tua vita. Vedete, Boaz, non abbiamo il tempo di leggere tutti i versi, ma Boaz elogia Ruth perché fa una scelta difficile di lasciare i suoi parenti, di lasciare la sua famiglia, di lasciare la sua vecchia religione, di lasciare i suoi dei per rifugiarsi in Dio. E che cosa significa rifugiarsi in Dio? Sì, aver accettato Dio come propria guida personale, ma anche entrare a far parte del popolo. Il popolo è il mezzo attraverso il quale Dio vuole guidare e benedire la tua vita. Il popolo nella sua imperfezione. E badate bene, facciamo un passo indietro a domenica scorsa. I tempi in cui Ruth si è rifugiata nel popolo di Israele non erano i tempi migliori. Il popolo di Israele non stava dando il meglio di sé, l'abbiamo letto più volte, c'è scritto nei giudici che ognuno andava per la propria strada, non seguivano la legge di Dio, non stavano osservando le leggi morali che Dio aveva affidato al popolo, era un popolo imperfetto, motivo per il quale Boaz dice a Ruth: non andare in altri campi, io voglio difenderti. non è un'istruzione per possessione, per appropriarsi, per manipolazione. No, è un'indicazione per amore, protezione. E Boaz è un uomo illustre, un esempio meraviglioso per ognuno degli uomini che sono qui. Per ogni uomo che si dica figlio di Dio, Boaz è l'esempio da seguire. Tratta Ruth come Dio tratta ogni sua figlia. Non vede Ruth quale donna, non la vede nella sua vulnerabilità. Vedova, sola, povera, avrebbe potuto approfittarsene. No, la chiama figlia. La chiama figlia perché? Perché si mette in una condizione di vedere questa donna come Dio la vede. E noi uomini siamo chiamati a vedere ogni donna attorno a noi nella nostra vita come la vede Dio e a trattarla come Dio vorrebbe che noi trattassimo le sue figlie. Questa è una parentesi, però appartenere al popolo è ciò che dà garanzia a Ruth di beneficiare della legge del riscatto, della legge anche della spigolatura. Questa era una legge del popolo di Israele, questa era una legge di generosità. Sapete cosa prevedeva questa legge? Dio aveva comandato al popolo che i mietitori dovevano passare nel campo e mietere facendo una sola passata. Non potevano tornare indietro, non potevano raccogliere ciò che era sfuggito e tutto ciò che cadeva o era sfuggito ai mietitori era destinato alle vedove, agli orfani e ai poveri. Alle vedove, agli orfani, ai poveri e agli stranieri, dice Deuteronomio. Quindi Dio aveva stabilito una legge all'interno del suo popolo per benedire coloro che erano in questa situazione. Il popolo di Dio è un popolo che fa alleanza, Chiesa, ricordiamocelo, per aiutare chi ha bisogno di soccorso. E se tu hai bisogno di soccorso, questo è il contesto migliore nel quale ritrovarti, perché noi rappresentiamo Dio e noi, come ambasciatori di Dio, ci prendiamo cura di ogni persona che è attorno a noi. Quindi, qual è la scelta migliore per essere guidati da Dio? Appartenere al popolo. Non dire io amo il Signore ma la Chiesa è imperfetta, perché la Chiesa sarà sempre imperfetta come è stata imperfetta il popolo di Israele. Ma non importa quanto imperfetta la Chiesa è, Dio l'ha scelta, Dio l'ha stabilita e questo è il contesto giusto. La prossima settimana si riuniranno i gruppi in casa. Il gruppo in casa è il contesto giusto per interagire con altri fratelli, con altre sorelle, per chiedere preghiera, per camminare insieme in un cammino di fede. Nessuno dovrebbe camminare e fare il suo percorso di fede in solitudine, perché in solitudine sei vulnerabile e sei soggetto all'attacco del diavolo. Fatemi dire un'altra cosa, questa sarà molto forte. Se andate a leggere l'Epistola ai Corinti, noi leggiamo che l'Apostolo Paolo, per un atto di disciplina all'interno della Chiesa, perché c'era una persona che andava completamente fuori da ogni logica divina, da ogni morale da preservare all'interno della Chiesa, fa una cosa, prende una scelta, la più radicale, la più forte, l'atto disciplinare più arduo che si possa avere nella Chiesa, in una comunità locale, e dice: quell'uomo sia cacciato dal vostro mezzo. Sapete come descrive questa condizione? La descrive come: io lo metto in man di Satana. In man di Satana. Lo sta maledicendo? Vuole che Satana si scagli contro quest'uomo? Vuole che tutta la potenza del nemico e delle tenebre faccia del male a questa persona? No. Piuttosto, sta dicendo che nel momento in cui si esce fuori dall'appartenenza, dalla comunione, si è vulnerabili all'attacco del nemico, ci si rende conto di che cosa si va a perdere. E la cosa bella è che nell'Epistola 2 dei Corinti noi troviamo l'Apostolo Paolo che dice: ora riaccoglietelo, perché ha compreso la lezione, si è ravveduto, allora lo potete riabbracciare nel vostro mezzo. Ma io voglio sottolineare questa dicitura: in man di Satana. Ci rendiamo conto che senza un popolo, senza la Chiesa, noi siamo vulnerabili all'attacco del nemico. Vogliamo ricordarci che siamo un gregge? Vogliamo ricordarci che non siamo solo singoli discepoli che seguono Gesù, ma siamo un gregge di pecore che ha bisogno della guida, della protezione e della cura del sommo pastore che è Cristo Gesù. E lui guida non individualmente le sue pecore, non lo fa solo così, lo fa come gregge, perché lui va avanti alle sue e le sue lo seguono. Questo è il gregge di Cristo Gesù. Amen. Qui sei in protezione, qui c'è provvidenza, qui c'è tutto ciò di cui ha bisogno per crescere spiritualmente, ma sta a te vivere l'appartenenza. Ruth beneficia di quelli che sono i diritti e i privilegi di un appartenente al popolo. Va a spigolare, si appropria di quello che è il beneficio di far parte del popolo di Israele. Tra i Moabiti, tra gli Amalechiti, negli altri popoli, non avrebbe trovato questo. Ma nel popolo di Dio può beneficiare di questa legge di Dio di cui Boaz è buon custode e buon ambasciatore. Amore, appartenenza e azione. Oh, fratelli, sorelle, amici, ragazzi, giovani, adolescenti, in modo particolare. Azione, azione. Dio ama guidare coloro che sono già in movimento. E Ruth che dice: fammi andare a spigolare. È Ruth che prende l'iniziativa di muoversi in azione. Stiamo attenti a non spiritualizzare la passività. La passività non è spiritualmente contemplata. No, ma io devo stare fermo perché il Signore ancora non mi ha dato un'indicazione, devo ancora capire, non ho ancora una scelta chiara, devo pregare, starò fermo qui a casa per pregare, per leggere e sì, giocare anche un po' alla PlayStation. Ma non è questo, cioè l'importante è che io stia fermo per ascoltare l'indicazione di Dio e non faccia nulla senza la sua indicazione. No, non è così che funziona. Dio vuole che noi entriamo in azione. Dio nobilita il lavoro. Questa donna, non so se avete colto, lavora. E lavora duramente. E quello che leggiamo non è l'episodio singolo di un giorno. Non leggiamo solo che Ruth lavorò da mattina a sera. Noi leggiamo che Ruth, fate attenzione, come finisce il primo capitolo e come anche finisce il secondo capitolo, ci dà indicazioni temporali. Ruth continua a mietere, continua a spigolare dalla raccolta dell'orzo fino alla raccolta del frumento. La raccolta dell'orzo cominciava a fine aprile e la raccolta del frumento finiva a inizio giugno. Quindi per 2 mesi, costantemente, questa donna ha fatto il lavoro più arduo nella stagione più difficile agricola in un tempo dove il calore si faceva sentire. Era il tempo, noi viviamo nella campagna che raccoglie le olive, noi conosciamo il periodo della raccolta delle olive, è molto intenso. Beh, quello era il tempo che di massimo lavoro che Ruth ha scelto di vivere appieno. Che cosa voglio dire con questo? Che Dio ama quando i suoi figli non stanno a mani incrociate, ma si danno da fare. Mosè fu chiamato mentre lavorava per Jetro, suo suocero. Saul fu chiamato mentre cercava le asine del padre. Davide fu chiamato mentre pascolava il gregge ed ebbe modo di affrontare il gigante perché ubbidì a un'indicazione che il padre gli diede di andare a portare il cibo ai fratelli. Ruth fu riscattata perché prese l'azione di andare a lavorare. Cosa ho da dire? Vai a lavorare. Vai a lavorare. ma non è così spirituale. Nel lavoro si soffre, nel lavoro si suda. Vai a lavorare. Ascoltatemi bene, il lavoro non è quello che ci vogliono presentare, un'opportunità per guadagnare bene e sentirsi realizzati. Il lavoro, alcuni lavori in modo particolare, servono a forgiare il tuo carattere. Alcuni lavori Dio ti chiede di farli non per guadagnare bene e sentirti realizzato, perché finalmente qualcuno ha riconosciuto i doni e le capacità che hai. Alcuni lavori servono proprio per forgiare la tua costanza, la tua disciplina, il tuo svegliarti, il tuo sudare, il tuo stancarti. Ruth ogni mattina si alza, va nei campi sotto il sole, raccoglie, spigola, si rompe la schiena, torna a casa e il giorno dopo si rialza e fa di nuovo la stessa cosa, da mattina a sera, di settimana in settimana. E Dio avrebbe potuto riscattarla al primo giorno di lavoro? Avrebbe. Ma aspetta. Perché è proprio l'attitudine di Ruth che comincia a permettere a Dio di far attrarre le attenzioni di Boaz. Boaz comincia a vedere questa donna per il carattere che ha. E sapete cos'è il carattere? Il carattere non è quello che dici, quello che dico. Io posso dire mille parole da qua sopra. Il carattere non è quello che dici a parole, è quello che fai. E sapete chi vede veramente il nostro carattere? Dio. Il carattere è quello che sei quando nessuno ti vede. E tu solo puoi sapere che tipo di vita stai vivendo. E non angosciarti, non deprimerti del fatto che stai lavorando, che ti stai spezzando la schiena, che è duro, che è difficile, che lo studio, non finiscono mai questi esami. Non ti lamentare di questo, perché anche se quell'esame pensi che non servirà a niente, servirà al fatto che ha forgiato il tuo carattere, ad essere ligio, ad essere costante, ad essere discepolato. E questo è un messaggio che devono ascoltare i giovani, ma questo è un messaggio che devono ascoltare i genitori anche. Perché come genitori abbiamo la responsabilità di far crescere dei figli così, pronti alla vita, che conoscono il sudore, che conoscono il dolore, che conoscono il sacrificio. E se li culliamo e coccoliamo, li manteniamo fino a età matura, fino a età adulta, come dei piccoli bambini, incapaci di affrontare le sfide della vita. Amore, appartenenza, azione. Siete ancora con me? Ascoltate questi versi. Atti 16:6. Attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo impedì loro di annunciare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise. Qualcuno mi sta guardando e dice: il pastore ha cambiato messaggio, è impazzito. Che c'entra questo? Invece c'entra. Vedete, qui noi troviamo gli apostoli, i discepoli di Dio che vanno in missione e si muovono, guidati da un'indicazione che Dio gli ha dato. E non stanno lì fermi in preghiera a dire: dove dobbiamo andare? Dacci indicazione, nel momento in cui ci darà indicazione noi ci mobiliteremo. No, loro vanno, loro sono in azione, loro sono in movimento, perché forse sapevano già che Dio, se vuole guidare, guida anche impedendo e chiudendo delle porte. Dio non ti guida solo dicendoti lì devi andare. Dio ti guida anche dicendo: ok, ti sei incamminato e apprezzo il tuo movimento, devi cambiare un attimino solo la direzione. Dio ama guidare in questa maniera. Lasciati guidare nell'azione, come hanno fatto gli apostoli. Ho detto che erano tre, ma sono quattro i punti. Ce la fate? ce la fate? Oh, perché questo punto io ci tengo, perché poverino Boaz l'abbiamo proprio ignorato. Cioè Ruth prende tutta la scena, ma Boaz è straordinario, non si può evitare di parlare di Boaz, è un torto fatto a Boaz, non possiamo passare al capitolo 3 senza dire qualcosina su Boaz. Me la fate dire qualcosina su Boaz? L'ultima parola è allineamento. Boaz era allineato alla volontà di Dio. E sapete, non è, questa non è solo una storia meravigliosa di Ruth, questa è una storia meravigliosa anche per Boaz. Boaz trova una moglie che ha un destino, una moglie secondo Proverbi 31, vigorosa, la chiama così, con lo stesso termine che troviamo in Proverbi 31, una donna che lavora, una donna che conosce il sacrificio, una donna che è timorata di Dio. Boaz trova il meglio del meglio, Boaz fa 13. E come fa a 13? Perché lui stesso è allineato alla volontà di Dio. Lui è un uomo che segue la legge di Dio, i comandamenti di Dio. Lui è un uomo che lascia spigolare. Lui è un uomo che vede, e poi vedremo, un uomo che si propone di attivare un'altra legge di Dio. Ma che cosa voglio dire? Che nel momento in cui tu ti allinei alla parola di Dio, Dio comincia a creare opportunità e aprire porte. Quando ti allinei alla volontà di Dio e fai quello che Lui comanda e chiede di fare, tu ti metti in condizione maggiore di poter essere guidato verso vie gloriose che Lui ha in serbo per te. Vedete cosa dice di Cornelio Atti 10. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo. Vedete, qui è un altro tipo di indicazione che Dio dà, attraverso un angelo. Un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, prestate attenzione alle parole, Cornelio. Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose, che c'è, Signore? L'angelo gli disse, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Le tue preghiere e le tue elemosine non sono passate inosservate, sta dicendo l'angelo. Non sono passate inosservate. Ogni gesto che tu fai in allineamento con la volontà di Dio non passerà inosservato. Fai quello che Dio ti chiede di fare. Apri la Bibbia, considera quello che la Bibbia dice e fai quello che ti istruisce a fare, perché così sarai guidato. 1 Pietro 3:7. Anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. Ascoltate ora. Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Avete mai letto questo verso? Affinché le vostre preghiere non siano impedite. E da cosa sono impedite? Da come tu tratti tua moglie. Che bomba che sto lanciando, a conclusione del messaggio. Tutte le mogli mi stanno facendo il tifo in questo momento. L'applauso. Per concludere, potremmo dire così, che allinearci alla parola di Dio ha dirette conseguenze sul nostro percorso di vita. Sblocca benedizioni e vittorie. Potremmo dire lo stesso, no, di quando Dio dice perdonate agli altri, altrimenti Dio non perdonerà a voi. Ci sono delle benedizioni che si sbloccano nel momento in cui tu ti allinei a Dio. Allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo considerare qual è l'azione che Dio ci sta chiedendo di fare per poter essere messi in migliore condizione di essere guidati da Lui. Forse è amarlo, forse questa è la cosa più importante, è l'unica che ti devi portare a casa. Ama Dio, dai a Lui il tuo cuore, dai a Lui la tua vita, vivi per Lui. Oppure forse entra in azione, o forse vivi l'appartenenza alla Chiesa, o forse ancora è allinearti a qualcosa che emerge dalla parola di Dio, che ancora non stai facendo e che Lui ti sta chiedendo di fare. Vogliamo chiudere i nostri occhi e vogliamo pregare. Grazie Padre, grazie per il libro di Ruth, è meraviglioso, grazie per come ci guidi, grazie per come ci ami. Io ti ringrazio perché tu stai orchestrando le vite nostre, tu stai preparando delle sorprese, tu stai preparando delle tappe per noi inaspettate. Al tempo stesso, Padre, ci stai forgiando, stai modellando il nostro carattere, stai chiedendo a noi di fare scelte. Allora siamo qui per dirti, Signore, vogliamo andare verso la tua direzione, vogliamo fare quello che tu ci chiedi di fare, vogliamo essere come Ruth. Voglio pregare per chiunque questa mattina in modo particolare dice: io amo il Signore, ma vorrei amarlo di più. O forse sei qui e non hai mai preso in considerazione che Dio ti sta chiedendo di amarlo, che Dio ti sta attirando al suo amore. E allora io voglio pregare in modo specifico per queste persone. Lui ti ama e Lui vuole essere da te amato. E tu puoi amarlo nella misura con cui comprendi quanto sei amato da Lui. E io voglio dirti questa mattina che tu sei amato talmente tanto che Dio è morto per te. Ha pagato il prezzo di riscatto, ha coperto i tuoi peccati con il suo sacrificio. Tutto ciò che devi fare è accettare e accogliere il suo amore e amarlo, amarlo. E forse questo per alcuni significa tornare al primo amore. Hai perso il primo amore, hai perso quel vigore, quella passione che c'era all'inizio quando hai scelto di seguire il Signore. E allora io ti dico, questa mattina è il momento giusto per dire: Signore, io voglio amarti intensamente, con passione, e voglio dipendere da te e così anche essere guidato da te. Voglio pregare.